male. Perché usare la testa quando basta il cuore? No, non preoccupatevi, non è una domanda alla quale siate chiamati a rispondere voi. È solo lo slogan che campeggia sui manifesti dell'ultima campagna pubblicitaria di un settimanale femminile, anzi femminile senza precedenti, come sente il bisogno di precisare in calce. E infatti alla domanda segue senza soluzione di continuità una specie di firma risposta. Perché usare la testa quando basta il cuore? Sono una donna. Ora che le donne siano tutto cuore e niente cervello, nel senso che si tratta notoriamente di creature emotive, umorali e poco o nulla propense a fare i conti con le esigenze della razionalità, è uno degli stereotipi più diffusi quando si parla dell'altra metà del cielo. È quasi altrettanto diffuso di fatto di quello che le vuole tutte testa e niente cuore, è come a dire attente soltanto ai propri interessi, calcolatrici e pochissimo sentimentali. Chi a simili venerandi luoghi comuni faccia ricorso a una pubblicità presumibilmente mirata a un target femminile può stupire, ma non più di tanto. Guardandovi un po' in giro, leggendo gli slogan sui vari manifesti affissi, scoprirete che, stando a quanto affermano le altre affiche della stessa campagna, la parte femminile del genere umano ha delle caratteristiche ancora più strane. Non crede negli eroi ma spera nelle favole, ha tante qualità ma anche troppe, si ama uno stile ama anche il suo opposto e via dicendo. È evidente che gli ideatori, chiamiamoli così, di quei messaggi si sono sforzati di definire a modo loro un modello di femminilità estroso, imprevedibile, seppure un pochino convenzionale, e avranno avuto i loro motivi per ritenere che gli auspicati acquirenti si rispecchino con soddisfazione in quell'immagine. I tempi d'altronde sono duri per chi cerca di usare soprattutto la testa, e può darsi benissimo che la prospettiva di prendere in considerazione soltanto gli imperativi del cuore sembri piuttosto attraente. Il passante che di fronte a quel proclama murale osservasse che tanto dal punto di vista della fisiologia dei vertebrati quanto da quello della morale metaforica, quella stile Menenio Agrippa, sarebbe meglio far conto su entrambi gli organi e cercare magari di integrare le loro diverse potenzialità, correrebbe il rischio di sembrare un insopportabile pedante. Anche perché quando dalla pubblicità delle riviste femminili si passa a quella dei nuovi gadget elettronici, ci si accorge che l'alternativa tra testa e cuore tutto sommato conta solo fino a un certo punto. Avete visto anche voi, tanto per fare un esempio, gli inserti a colori a piena pagina che sui principali quotidiani ci invitano a provvederci di un oggetto di cui suppongo nessuno d'ora in poi potrà fare assolutamente a meno, il telefonino dotato di fotocamera incorporata in grado di visualizzare sul suo display e trasmettere istantaneamente ai suoi simili le immagini digitali appena scattate. E sono inserti illustrati, manco a dirlo, con la fotografia di una donna. È una fotografia che, a giudicare dalla battuta che suona "ecco, non muoverti perfetta così", dovrebbe figurare come appena scattata. La modella che calza un paio di scarpine da sera, di quelle con i tacchi molto alti, è ripresa soltanto dalle ginocchia in giù. E cosa sta facendo quella bella ragazza con i tacchi a spillo mentre la stanno fotografando? A giudicare da quel non so che di grigio, deve essere uno straccetto, qualcosa che si intravede all'altezza delle caviglie, e a giudicare da quello si sta togliendo, con rispetto parlando, gli slip. E proprio come la sua collega che propaganda un altro attrezzo indispensabile in ogni famiglia appena aggiornata, la videocamera computerizzata che permette di farsi vedere su uno schermo di quelli da coloro a cui si sta telefonando, è occupata in un'altra pubblicità, è occupata sotto gli occhi di un maschione inquadrato nel televisore della sua camera da letto a sfilarsi il reggiseno. Che sono entrambe attività, quella di sfilarsi gli slip e quella di togliersi il reggiseno, a cui ci si può dedicare a seconda delle circostanze per obbedire alle ragioni del cuore o a quelle della testa, senza però che la differenza dal punto di vista di coloro a cui le immagini sono rivolte possa essere considerata davvero rilevante. Perché, insomma, A giudicare da questi esempi è difficile sfuggire all'impressione che alla cultura di chi ce li propone del cuore e della testa importi ben poco e che le parti anatomiche su cui i fruitori sono invitati a concentrarsi siano ben altre. Come a dire che sono ancora in parecchi gli uomini e le donne serenamente convinti che della testa e del cuore si può fare benissimo a meno finché resta la possibilità di togliersi le mutande.